Mi Eccoci qui, siamo pronti per raccontarvi oggi una bellissima storia d'amore, una storia d'amore di musica che ha come protagonisti due eccellenti musicisti. Lui, un contrabbassista jazz di fama internazionale, fratello Joseph Bassi, lei una contrabbassista di musica classica che direttamente arriva da Taipei, dove è la seconda contrabbassista dell'orchestra cinese, lì a Taiwan. Ladies and gentlemen, protagonista ancora di questa storia d'amore uno strumento, lo avrete capito, il contrabbasso, uno strumento ingombrante che in questa stanza di albergo è posizionato proprio su questo bellissimo letto matrimoniale. Fratello Joseph Bassi, vorrei raccontare la tua storia d'amore partendo però dal suo esordio come uomo di chiesa e come musicista jazz. Che cosa è successo quando era bambino? Ha avuto un'illuminazione? Appena adolescente sognavo di diventare frate, perché amavo e amo tutt'oggi la natura, gli uccellini, il silenzio, i posti bellissimi, e quindi volevo entrare in seminario. Così feci, entrai in un piccolo monastero e per pochissimi giorni provai a diventare un frate. Pochissimi giorni, perché pochissimi giorni? Perché mi sa che nel monastero portasti anche il tuo strumento. È stata questa infatti la cosa che... La tua rovina? La mia rovina, diciamo, della carriera appena cominciata come frate, perché dopo la preghiera dei Vespri, siccome non avevo sonno, non c'era la TV e la radio, suonavo il contrabbasso, non sapendo che i confratelli appunto stavano dormendo. E sentendo questo suono molto basso, cupo, cavernicolo, come un orso enorme, diciamo, che viaggiava nel monastero, loro pensavano a un indemoniato che stesse in una celletta. quindi questo indemoniato qui procurava loro dei sogni notturni bruttissimi, e quindi cominciavano a imprecare cercando di allontanare questo Satana swingante. Ecco, un satanasso swingante. Credetemi, questa è una storia vera, la storia di fratello Joseph Bassi. Quindi con il contrabbasso swingavi di notte nella tua celletta, poi preso da delle pulsioni, me lo lasci dire fratello Joseph, ritmiche ed erotiche al tempo stesso, i confratelli capirono che forse tu non eri fatto per quel tipo di vita. Assolutamente no, perché da quando mi innamorai dello swing ascoltando Warm Breeze di Count Basie, coniugavo il fare l'amore con lo swingare sul contrabbasso. Ecco, ma il fare l'amore per i fratelli era un fare l'amore in senso platonico nei confronti della natura, degli uccellini e della bellezza, credo. No, io invece cominciai a pensare a far l'amore, quello vero, quello che esiste tra i ragazzini e le ragazzine, e quindi... Quindi questo tipo di mentalità non poteva andare d'accordo con l'atmosfera tipica del seminario. E allora hai preferito dedicarti completamente allo swing e al contrabbasso, e non potendo più aspirare a una vita monastica, qual era il tuo obiettivo? Diventare chi e che cosa? Beh, volevo diventare come Ray Brown. Come Ray Brown. Ray Brown è stato il più grande contrabbassista della storia del jazz, un grande maestro. Pensate che sposò Ella Fitzgerald, una coppia di swing al 100%, ma è di una coppia che vive di musica che noi vi vogliamo parlare per raccontarvi una storia d'amore. E lo faremo subito dopo aver ascoltato Ray Brown con il suo swing, qui affiancato da Monty Alexander al pianoforte, Lewis Nash alla batteria in Hoogie Boogie. Questo è il soundcheck di Radio 24. Abbiamo dato il via alla puntata di oggi con lo swing inconfondibile del contrabbasso di Ray Brown, perché parliamo di questo strumento, ma di una storia d'amore che vede protagonista fratello Joseph Bassi, uno dei migliori contrabbassisti italiani nel mondo. Restate con noi al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Sì, questa è l'anteprima in esclusiva del nuovo album di Robert Glasper, Black Radio 2, e mi sa che anche quest'anno Robert Glasper sarà lì lì per prendere il secondo Grammy Award con questa pubblicazione come miglior album R&B. Noi ve lo proponiamo in esclusiva per gentile concessione della Blue Note Records. Qui Robert Glasper ha coinvolto la voce bellissima di Anthony Hamilton in un brano intitolato Yet to Find. Vi raccomandiamo Robert Glasper, il disco verrà pubblicato in tutto il mondo il 29 di ottobre e quindi in questi giorni potete ascoltarlo solo da noi al soundcheck di Radio 24. Nostro ospite fratello Joseph Bassi, accompagnato da una bellissima ragazza con tratti delicati orientali, una ragazza che oggi è la moglie di fratello Joseph Bassi, che come lui ha la passione per la musica e per uno strumento. Lo strumento è il contrabbasso, lo strumento che suona fratello Joseph Bassi ormai da tanto tempo. La sua vita è sempre con il contrabbasso sulle spalle in macchina, uno strumento molto difficile da portare dietro, ma la vita è diventata molto leggera insieme a sua moglie Cherou. Come hai conosciuto Cherou e chi è Cherou? Cherou è una delle più grandi contrabbassiste che io abbia mai conosciuto. Lei è diciamo la seconda contrabbassista dell'Orchestra Nazionale di Taipei e l'anno prossimo ambirà a diventare il primo contrabbasso di questa unica orchestra al mondo. Scusami, fratello Joseph, ma come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti grazie a Facebook, perché eravamo amici... Sul serio? Ma questo non lo sapevo! Sì, perché eravamo amici di un gruppo che si chiama Contrabbassisti nel Mondo. Lei andava a New York, chiedeva agli amici chi potesse fittarle un contrabbasso a New York. Io ho un contrabbasso che sta sempre a New York. Ovviamente appena vidi questo splendore, questa coniugazione unica al mondo, donna contrabbasso, mi feci avanti prima di tutti e ho passato il traguardo per primo. Io non so come fate a comunicare con Cherou, però io ho qui di fronte a me questa strepitosa musicista e vorrei farti una domanda. Parlo lentamente per farmi capire, non so se lei capisce, signora Cherou. Come è stato l'approccio con fratello Joseph Bassi? 我们在Facebook上面碰到，因为有一个团体叫做低音提琴在全世界的一个团体，那我们因此而在Facebook上认识。 Che ha detto? Non lo so. Come? Io ho capito solo Facebook. Ma come fate a comunicare? Come puoi vivere una storia d'amore con una persona che parla una lingua così difficile, incomprensibile per noi? Beh, la passione per il contrabbasso prima di tutto. Noi suoniamo in casa, abbiamo due contrabbassi, ci alziamo la mattina dopo un primo ballo che facciamo con la musica. Propiziatorio? Per forza propiziatorio, perché noi insomma ci... Adesso non vorrei dire delle cose che in radio non si possono dire, però col contrabbasso diciamo facciamo davvero tutto. Signora Cherou, che rapporto ha lei con il contrabbasso, con il suo strumento e con fratello Joseph? 因为音乐无国界，所以我们就彼此演奏，互相秀自己的一个音乐，然后就这样子因此而认识。 Beh, mi sembra abbastanza convincente. No, non ho capito nulla. Che ha detto? Ha detto non ho capito niente neanch'io, però è fantastico. Però è sorridente, va bene così. Sorella Cherou, posso chiamarla sorella? Sorella Cherou, le piace George Benson? Conosce George Benson? 是我认识 George Benson， 他演奏的非常非常的有名，而且的音乐就是非常非常的好听，然后很有他的节奏感，还有一些即兴的东西在里面。 Non ho capito nulla. Comunque questo è George Benson on Green Dolphin Street al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo operativi da Lugano, per voi il soundcheck di Radio 24. Siamo nella stanza di questo bellissimo albergo che ospita una coppia meravigliosa, una coppia che vive di musica, una coppia che vive in simbiosi con uno strumento, il contrabbasso. È molto carino immaginare fratello Joseph Bassi e sorella Cheru, che è la seconda contrabbassista dell'orchestra cinese di Taipei, giusto? Ho detto bene? Ecco, forse ho detto bene, non posso avere. Che cosa aveva detto? Ha detto che esattamente che lei suona in un'orchestra particolare, l'orchestra cinese di Taipei, di Taiwan, che suonano musica tradizionale classica cinese. Classica cinese. È molto carino vedere che qui sul vostro lettone matrimoniale c'è il contrabbasso. L'hai fatto apposta per farmi ridere o farmi uno scherzo? No, è un contrabbasso molto antico, quello di Cheru, a cui noi ci teniamo, quindi quando non dormiamo sul letto lasciamo lui riposare. Allora, con fratello Joseph Bassi abbiamo registrato ormai da alcuni mesi, e abbiamo anche fatto una bellissima tournée con il progetto New Joy, questo album nuovo che abbiamo prodotto per Columbia Records. E conoscendo la storia d'amore di fratello Joseph Bassi con la signora Cheru, abbiamo scritto una canzone dal sapore gospel che parla del matrimonio, un matrimonio forse così bizzarro, un po' come il vostro, un matrimonio che si basa sulla passione per la musica e per il contrabbasso, e l'abbiamo intitolato Available for Wedding, cioè disponibile per il matrimonio, perché quando tu facesti la proposta di matrimonio a Cheru, che cosa le chiedesti via Facebook? Beh, gli chiesi prima di tutto se realmente mi amasse via Facebook. Ma come si fa a amare una persona senza un incontro, solo attraverso Facebook, fratello Joseph? Noi comunicavamo con Skype anche, non solo con Facebook, e avevamo Skype acceso 24 ore, quindi abbiamo avuto un modo di frequentarci molto molto intimamente, dico intimamente proprio come persone. E poi intimamente via Skype? Intimamente via Skype, sì, comunicando ovviamente guardando la faccia, gli occhi e l'anima delle persone, ma anche suonando il contrabbasso via Skype. Questa è una storia contemporanea, una storia che noi abbiamo sottolineato in questa canzone che si intitola Available for Wedding. Sorella Cheru, contenta di questa composizione che le abbiamo dedicato? È un brano che abbiamo scritto per la vostra storia d'amore. Joseph Bassi e Cheru, due contrabbassisti in un solo corpo, una sola anima. È bellissima, è una storia d'amore che io quasi invidio. Che cosa farà prossimamente? Quali sono i suoi impegni da musicista, sorella Cheru? 接下来我会跟一个团体演奏教堂音乐，然后会在全世界做一个巡回演出这样子。 Che cosa ha detto? Ha detto che tornerà a Taiwan per cercare di suonare come primo contrabbasso. Ma stai dicendo una cazzata enorme, non hai capito nulla, fratello Joseph. Mi dispiace. Stai in problema, ma tu fai così, tu interpreti, forse a volte è meglio, Tu interpreti quello che ti dice tua moglie. Sì, lo interpreto, e per questo noi dureremo molto, penso, forse infinitamente. È quello che ti auguro. Allora io voglio dedicare, per chiudere il soundcheck qui su Radio 24, vi voglio dedicare questa canzone, una canzone bellissima portata al successo tanti tanti anni fa da Etta James. Si ricorda Etta James, Cheru? Sì, se la ricorda. Il brano si intitola At Last e qui l'interpretazione è quella di Joni Mitchell con un'orchestra sinfonica arrangiata dal maestro Vincent Mendoza. Conosci il maestro Vincent Mendoza? What's that? E mi sembra il modo migliore per chiudere questo appuntamento. Grazie fratello Joseph Bassi. Vuole fare una dichiarazione prima di lasciare il nostro pubblico? Beh, una benedizione realmente piena di swing e di felicità a tutti quanti. When you smiled at me, that's how the spell was cast. And now here we are in heaven. I found my love at last. Sound check. Il suono della musica. Thank you.